Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Le 10 e quasi 10 minuti, buona domenica, Stefano Gallarini, comincia il riposo del guerriero. Milano si è riposata oggi nel senso che c'era il blocco totale delle auto perché c'è la City Marathon, erano tutti in metropolitana coi pantaloncini mentre piove e li ho invidiati molto per la verità, perché dico che voglia che avete di mettervi a fare la maratona così al mattino presto con la pioggia. E vabbè, fa niente, ma ci vuole, bisogna avere questa tempra, diciamo. Il riposo del guerriero oggi si occuperà di oggetti di culto, quegli oggetti che magari abbiamo a casa o che non abbiamo e che abbiamo sempre desiderato avere o che semplicemente guardiamo, ammiriamo. A volte ci fanno storcere un po' il naso perché ci domandiamo perché sono di culto, cioè perché sono diventati così famosi, perché vengono esposti in tutti i musei d'arte moderna del mondo. Ma ci sono i motivi ed è bello scoprirli, conoscerli, ed è bello scoprire anche appunto gli oggetti che fanno parte della nostra vita e che in qualche modo ci comunicano emozioni. Come sempre, se avete i vostri oggetti di culto, devo dire che su Facebook già qualcuno sta mettendo i propri con tanto di fotografia, e questo è il bello proprio di internet, fatecelo sapere sulla nostra pagina di Facebook Il Riposo del Guerriero, oppure se volete scriverlo, ovviamente senza foto perché non possiamo vedere gli MMS. Sono antichi, Adesso mi rendo conto, quando dico MMS mi sembra di dire una roba di 20 anni fa. Una volta si mandavano gli MMS, cioè l'SMS con la foto, anche adesso, però si fa un po' meno perché con le applicazioni che ci sono si usano altri sistemi. Comunque il numero per i vecchi e tanto cari SMS, cari in tanti sensi, 349-238-6666. Siccome oggi parliamo di oggetti, anche perché sta per cominciare il Salone del Mobile di Milano e sarà difficile riuscire a vederli perché siamo in radio, e allora vi invito a immaginare. Però prima, è vero, devo ricordare il mistero in 24 minuti. Anche oggi alle 11.30 la possibilità di portarvi a casa fino a 1000 euro da spendere su libreriarizzoli.it, e sentiamo il primo indizio di questa settimana. Che bella canzone, mi piaceva tanto. Allora, questo è il primo indizio, la risposta può essere un personaggio oppure una notizia della settimana, qualcosa di molto conosciuto. Più indizi ascolterete, più il premio si abbasserà. Alle 11.30 quindi giocheremo con il mistero in 24 minuti. Il numero vero per prenotarvi da adesso, 800 24 00 24. E come dicevo prima, ora immaginate. Ho scelto John Lennon con Imagine per tanti motivi, un po' perché oggi dovete immaginare le cose che vi racconteremo, saranno da guardare più che da raccontare, però cercheremo di farlo, e poi perché non c'è canzone di culto come questa. Il riposo del guerriero. Entriamo subito nel vivo del riposo del guerriero. Carlo Guglielmi, buona domenica. Buona domenica a voi. Il presidente di Cosmit, perché apriamo direi con il Salone Internazionale del Mobile che partirà a Milano, se no dove, come scrivete voi sul sito, dal 17 al 22 aprile. Allora, iniziamo a parlare del Salone Internazionale del Mobile, Carlo, nel senso quest'anno che cosa ci sarà, le novità, e poi ci allargheremo perché il Salone Internazionale del Mobile non è soltanto in fiera, ma è sparso per tutta la città e anche oltre, quindi andiamo per ordine. Ma il Salone del Mobile si svolge a Ropero, su una superficie di 530.000 metri quadri, che sono interamente coperti, quindi già un risultato straordinario in un momento difficile come questo. Sono previsti arrivi per 330.000 persone, di cui circa 170.000 dall'estero, sono previsti 6.000 giornalisti accreditati. Allora io credo che tutto questo, per il nostro paese, per il nostro sistema, per la federazione Federlinio Arredo, in un momento come questo sia davvero un risultato eccezionale. Ecco Carlo, come siete riusciti dal 61 a oggi ad avere così tanto successo e credito proprio, ma veramente internazionale, lo possiamo dire? Ma io credo forte. Che ci siano di fondo due motivi. Il primo, che abbiamo alle spalle una federazione che comprende tutta la filiera del mobile, del legno e dell'arredo, coesa, unita, in questo momento poi in modo straordinario sotto la presidenza di Roberto Snaidero. La seconda è che siamo riusciti nel tempo, nel succedersi dei presidenti, e credo, dando anche il mio contributo come presidente amministratore delegato negli ultimi 4 anni, a far capire al mondo come i nostri prodotti sono quelli che sono, perché derivano prima di tutto dalla cultura, prima ancora che dal sistema industriale. Una cultura del nostro paese fatta da secoli di storia, una cultura che in questo settore, con il Rinascimento, con l'Italia dei mestieri, è diventata certamente la cultura che comanda il mondo. Ecco, quindi insomma, alla fine devo dire ce l'abbiamo fatta nel migliore dei modi, perché davvero questo è un momento difficile, per cui il fatto di riuscire invece a avere appunto così tanta presenza, questo significa molto e ci deve far piacere, perché ogni tanto noi siamo abituati un po' a piangerci addosso, no? A non valutare mai quanto l'Italia invece sia forte in tanti settori. Allora, il salone ovviamente è aperto al pubblico e dà la possibilità di visitare, e abbiamo visto lo spazio enorme, però il salone ha anche un aspetto che ormai da molti anni esiste, che è il fuori salone, e che invita la città a vivere nel vero senso della parola. Mai Milano come in quel periodo, cioè il 17 e 22 aprile, è così viva ed è così internazionale. Ma certamente, insomma, 330.000 persone, l'abbiamo ricordato, di cui 180.000 che arrivano dall'estero. Un salone che è un salone di business, che però viene aperto al pubblico il sabato e la domenica. Un salone come il nostro che organizza in città una serie di eventi, e quest'anno credo particolarmente straordinari, perché facciamo una cosa al Teatro della Triennale, che è un evento teatrale con mini, attori, luci, acrobati. Ne facciamo uno in una location che ci invita a tutto il mondo, come la Biblioteca Ambrosiana, dove facciamo parlare i libri intorno al tema della casa, e quindi intellettuali di ogni epoca che si scambiano opinioni su questo argomento. Beh, insomma, in Monte Napoleone, la città della strada, dello shopping per eccellenza, dove presentiamo 5 case rappresentanti 5 decade dagli anni 60 a oggi. Sono tutte iniziative, credo, che creino un'atmosfera importante, e soprattutto sono tutte iniziative aperte a tutti, quindi con uno spirito di democrazia, di apertura totale, tenendo conto poi che arrivano da tutti i paesi del mondo, quindi con tutte le religioni del mondo, con razze di tutto il mondo. E questo Carlo, perdoni, ma si vede veramente tanto. Io sorrido perché ogni volta che c'è solo l'interazione del mobile, anche se uno non volesse così, volesse più o meno chiudere gli occhi e non sapere le date, si accorge per forza che c'è, perché lo vedi proprio andando in giro per la città, soprattutto di sera, appunto, quando c'è fuori il salone. E questo mi fa sorridere, perché dico, finalmente Milano è internazionale, vero senso della parola. Poi un po' questo si perde, però in quel momento ce n'è tanto anche. Certo, certo. No, ma Milano è internazionale. Milano è una città fantastica che bisogna pian piano conoscere. Purtroppo chi ci abita molte volte è talmente preso dal lavoro che non se ne rende conto. Milano poi è una città in una trasformazione urbanistica straordinaria, e anche questo deve essere un polo d'attrazione. Milano deve diventare, oltre che una città importante per il business, importante per noi, per l'arredo, importante per la moda, per altri settori, ma deve diventare una città turistica, perché lo merita, e vivere a Milano qualche giorno è davvero un'esperienza unica. Concordo, perché l'amo molto, quindi mi invitiamo il 17 e 22 aprile al Salone Internazionale del Mobile. www.cosmit.it è il sito, e se capitate, io ve lo consiglio, per il fuori salone, da qualunque parte andiate qualcosa troverete per forza da vedere. Grazie Carlo Guglielmi. Grazie. E buon lavoro e buona domenica. Grazie a voi, vi aspetto al salone. Grazie, ci saremo anche per forza, perché in giro per Milano e ti ritrovi automaticamente, poi ti imbuchi anche quando non hai gli inviti, così e devo dire che gli universitari, e chi studia a Milano, chi va all'università, di solito aspetta proprio questo momento per uscire, conoscere, ci si fidanza anche tanto, perché c'è proprio tutto il mondo che gira. Poi grazie a Skype e ai network è possibile, ai social network, è possibile continuare, diciamo, queste storie che nascono in quella settimana, e poi chissà se riescono a proseguire o meno. Qualcuno si è anche spostato dall'Italia, qualcuno invece in Italia ci è rimasto. Luca Beatrice, buona domenica. Buona domenica a voi. Passiamo da un salone all'altro, perché questa volta siamo a Torino, e, al Lingotto ovviamente, dal 10 al 14 maggio, perché c'è il 25esimo Salone Internazionale del Libro, e anche questo è un salone altrettanto importante. Noi siamo qui perché all'interno del salone quest'anno, a parte che ci sarà Radio 24, comunque avremo modo di parlarne, saremo anche presenti lì, sarà presente anche il programma, io, eccetera. Ci sarà una mostra che si intitola I 25 oggetti simbolo del cambiamento all'interno appunto del salone. Allora, quali sono questi oggetti simbolo, Luca? Sono appunto tanti, sono 25 oggetti che hanno voluto raccontare la storia della nostra città, che dal 1988 ad oggi effettivamente ha proprio cambiato volto, ha perso quella identità di monocultura industriale per diventare una città turistica, frequentabile, molto divertente, devo dire, smentendo ciò che un tempo scriveva Stendhal, che diceva che Torino era una città grigia e noiosa. Non è affatto vero. Però è una città molto divertente. Guarda, molto divertente. Luca, te lo dico da milanese, e devo dire la verità, io non amavo molto Torino, sinceramente. Però, a parte che la posizione geografica è straordinaria, per cui già questo la rende comunque una città bellissima. E devo dire che davvero si è colorata negli ultimi 10 anni, una cosa del genere, insomma, si è proprio trasformata. Sono veramente concorde, ed è sempre stata una bellissima città, attenzione. Però adesso finalmente si vede, e questo è merito ovviamente della città. Devo dire che la cultura, da questo punto di vista, lo spettacolo, l'intrattenimento, proprio hanno fatto tanto, hanno cambiato volta questa città. Allora, per tornare ai 25 oggetti, sì. Ai 25 oggetti, beh, ce ne sono alcuni imprescindibili. La torcia olimpica 2006, che ha segnato proprio il momento forse di massima espansione per la nostra città, però poi c'è anche l'arte contemporanea, c'è la Reggia simboleggiata dal tappeto di Maurizio Cattelan, il famoso Bel Paese, non è il caso che lui è un artista, forse l'artista italiano più famoso al mondo. Però poi c'è anche il plastico dello Juventus Stadium, ovviamente non poteva mancare, ci mancherebbe altro, ma esiste anche tragicamente la sentenza Thyssen. Ecco, sono tante cose che hanno veramente voluto in qualche misura segnare. C'è la musica dei Subsonica sono effettivamente a tutti gli effetti il suono di Torino, però ci sono anche le fotografie delle classi multietniche che hanno cambiato proprio volto, no? C'è una nuova immigrazione a Torino, ci sono dei quartieri come San Salvario che hanno veramente fatto vedere che si può fare un'integrazione vera, reale, partendo proprio anche, non so, dall'enogastronomia, che è un altro dei nostri territori più rappresentati attraverso la chiocciolina dello slow food. Ecco Luca, due domande. La prima è se avete scelto 25 oggetti e qualcuno è rimasto fuori. Rimane sempre qualcosa fuori, punto. un po' come nelle mostre, non so, sì. Rimane sempre qualcosa fuori. Per il lavoro che abbiamo fatto insieme agli amici del Salone del Libro, in particolare il presidente Rolando Picchioni, ma tutto lo staff del salone, per una mostra che verrà allestita appunto nel padiglione 5, ha dovuto tener conto che ci sono delle cose che necessariamente anche proprio non ci potevano stare lì dentro, no? Però io credo che questi 25 oggetti, alcune sono veramente delle vere e proprie curiosità, tipo, non so, l'iniettore Common Rail o il file MP3, sono cose che sono state, tra virgolette, inventate a Torino. E poi appunto in Italia, perché ne abbiamo parlato Italia proprio recentemente in una delle puntate del Riposo del Guerriero, quegli oggetti inventati in Italia che nessuno sa, ecco, che siano stati creati da noi e che sono veramente internazionali, no? Avevo voluto rappresentarli proprio anche per dire che sì, è vero, il nostro paese vive un momento di grande difficoltà, però poi ci sono teste pensanti, ci sono persone che hanno voglia di sperimentare, di mettersi in discussione. Torino ha sempre avuto questa vocazione da città incubatrice, dove le idee nascono, poi magari vengono sviluppate altrove, però la scintilla è un po' dalle nostre parti, ecco. Ecco Luca, scegline uno di questi 25, che per qualche ragione per te è più rappresentativo degli altri. Insomma, appunto, io ho citato prima il plastico dello Juventus Stadium, essendo un juventino fazioso, è Ferrato, credo che quello rappresenti, e poi è anche il più nuovo, il più recente, sì, un po' la casa di tutti quanti noi tifosi juventini. Però vogliamo essere un po' più ecumenici, anche se io lo faccio sempre con estrema fatica. Devo dire che forse la mostra si conclude con il tricolore. Perché? Perché l'anno scorso, per i 150 anni dell'Unità d'Italia, Torino è stata effettivamente la città del tricolore, la città che ha parlato di questa identità dell'essere italiani. Allora, se devo sceglierne uno, forse una delle tante bandiere che sono state sui balconi dei torinesi. Va bene, abbiamo messo due oggetti che comunque ci stanno, anche vicini, va benissimo. Luca Beatrice, ti ringrazio, verremo a vedere ovviamente il Salone Internazionale del Libro, però vedremo anche questa mostra e finalmente toccheremo i 25 oggetti che ci ha fatto soltanto immaginare. Ciao, grazie Luca. Ciao, vi aspettiamo, ciao. Grazie, buona domenica. Allora, io volevo ricordarvi intanto il numero per gli sms, il 349-238-6666, perché arrivano già messaggi con gli oggetti che ritenete di culto, magari anche che non lo sono di culto nel vero senso della parola, ma che lo sono per voi, perché poi cercheremo di parlare anche di questi oggetti, oppure potete usare anche la pagina del Riposo del Guerriero che troverete su Facebook. Tra pochissimo parleremo di oggetti di culto italiani, di plastica, ho già detto tutto, avete capito. Il Riposo del Guerriero. Sorrido perché leggo i vostri messaggi, gli oggetti che cominciano ad apparire di culto, e ringrazio anche chi scrive dei messaggi, sms, dicendo non ho Facebook, non ho le foto, mi dispiace, però gli oggetti che sto per descrivere, questo scrive Carmen in un messaggio, credo che non abbiano bisogno di immagini perché tutti conosciamo la loro forma. Lorenza Luti, buona domenica. Buongiorno a tutti. Lorenza Luti ci parla di un museo da vedere, assolutamente, siamo alle porte di Milano se non mi sbaglio. Sì, e a Noviglio. A Noviglio, e parliamo del museo Kartel, ci sono oltre 3.800 prodotti, 15.000 fotografie, 5.000 disegni, e partiamo da Kartel proprio, no? Prima di parlare del museo, Lorenza. Sì, il nostro museo è a Noviglio, proprio insieme all'azienda, ed è credo uno dei migliori musei al mondo industriali, infatti ha anche vinto il premio Guggenheim come miglior museo d'impresa, e quello che è bello è che racconta proprio l'identità aziendale, quindi racchiude tutti i nostri valori, e non è soltanto una fotografia del passato, ma è veramente, racconta il passato, il presente e ci proietta nel futuro. Noi lo usiamo tantissimo e siamo molto orgogliosi di questo museo. Anche noi come italiani. Allora Lorenza, vogliamo un po' raccontare la storia di Kartel e quindi insomma dove è nato tutto, con quali oggetti si è iniziato, perché poi sono anche molto cambiati nel corso del tempo. Sì, sì, Kartel è nata nel 1949 con un'intuizione, quella di portare proprio questo materiale, il materiale plastico, nella vita di tutti i giorni. E i primi oggetti, che sono poi i primi oggetti del museo, sono i casalinghi, e quindi degli oggetti molto semplici, ma fin dall'inizio con un grosso segno del design, quindi anche se erano oggetti come spremi agrumi, alza immondizie, erano veramente degli oggetti disegnati già da designer famosi del tempo, quindi come Gino Colombini, Castiglioni, Lagao e Lenti. Con questo materiale, la produzione industriale, siamo riusciti a fare degli oggetti che avevano un ottimo rapporto qualità-prezzo e assolutamente funzionali. Ecco, una dimostrazione per esempio è la Louis Ghost, che ormai è la sedia che si vede sempre, in poche parole, devo dire. Sì, io amo assolutamente quella fascia di prodotti perché l'ho vissuta personalmente, una delle icone che all'interno del nostro museo appunto la sedia trasparente, siamo stati i primi a portare la trasparenza in questo materiale con il policarbonato, che era un materiale che veniva usato ad esempio per gli elmetti dell'esercito piuttosto che negli aerei, e la Louis Ghost è la massima espressione della trasparenza, per noi è una delle sedie più vendute al mondo, che richiama un disegno un po' classico però con un materiale assolutamente contemporaneo e moderno come il carbonato, e dà l'effetto poi della trasparenza. Ecco Lorenza, allora i prodotti sono tantissimi, vi invitiamo, il museo è aperto a tutti, che ha degli orari, dei giorni, bisogna prenotare, sì, per sì, entrare, Come il funziona? Museo è sempre aperto a tutti, in questa settimana particolarmente tutti i giorni, e anche si possono prenotare visite guidate con la nostra curatrice, che vi fa fare un giro molto interessante, in cui spiega veramente l'evoluzione dei colori, del materiale, delle forme, e attraverso il nostro museo, che è un percorso proprio cronologico, si capisce l'evoluzione anche del design italiano e di questo materiale, che è veramente malleabile e si trasforma negli anni, proprio anche nel touch, anche nei colori, ma proprio è fantastico. Si sente dal tuo entusiasmo, Lorenza. Allora, sono tanti i prodotti, quindi non è che possiamo elencarli tutti, 3.800 sono troppi, però alcuni di questi hanno proprio segnato dei momenti, delle epoche, ce li troviamo in casa senza magari saperlo, no? E li abbiamo visti milioni di volte. Allora, vogliamo così identificare qualcuno di questi oggetti, ecco, sì, i tuoi preferiti, o non solo i tuoi ovviamente, però lo saranno tuoi e anche di noi tutti. Guarda, a me piace molto il componibile, che è un oggetto tondo, multiuso, che può essere messo ovunque, ed è ancora uno dei nostri best seller oggi. E poi sono particolarmente affezionata perché l'ha disegnato mia nonna, quindi mi rimane nel cuore. E la Marie, che è la prima sedia trasparente, la Bookworm di Ron Arad, che è una libreria che era stata, l'idea è stata presa da una scultura ed è stata trasformata poi in materiale plastico, e penso che sia uno degli oggetti che molti italiani hanno in casa e probabilmente non ecco, sanno che è un oggetto carte. Esatto, allora spieghiamo un attimo, la Bookworm è una libreria che si piega, nel senso che segue la linea del muro arrotolandosi su se stessa, sembra una conchiglia, un worm, e quindi un come si chiama, un verme, in poche parole, un verme per i libri. La cosa straordinaria della Bookworm è che voi ve la inventate, nel senso che vi arriva questa lunga striscia nella quale poi dovete mettere i fermi per bloccare i libri, e potete fare voi il vostro disegno in base anche alla forma della parete. Questo rende la libreria unica, perché ognuno la monta a modo suo, quindi non esiste lo stesso modo di usarla, ecco, diciamo così, o comunque di metterla in parete. E questo... No, deve prendersi un pomeriggio per sì, farlo. Perché ci vuole, bisogna fare tanti buchi, perché i tasselli sono molti da inserire, però una volta che ce l'hai è bellissimo. Il risultato è molto molto bello. Ci sono anche degli alberghi design che hanno la Bookworm come libreria nelle stanze. E un altro prodotto può essere il Bubble, che è il primo divano industriale fatto con una tecnologia di rotation molding, che è una tecnologia molto utilizzata ora, ma all'epoca non lo era, e ha vinto anche il Compasso d'Oro per il design. È un prodotto di Philip Starr, che è un divano che si utilizza all'esterno e che sembra un pochettino una poltrona della nonna, però fatto anche qui con un materiale molto contemporaneo, che probabilmente esiste in molti bar a Milano e all'estero, e molta gente avrà sicuramente visto e non sa che probabilmente è di carta. Infatti uno dice, ma che bellissimo, cioè, poi vabbè, però in effetti i prodotti che avete fatto sono veramente tanti, e come dicevi tu, il rapporto qualità prezzo è molto buono, perché sono veramente oggetti di design che durano una vita, direi per sempre, e che non passano mai di moda, curiosamente, sono sempre belli da vedere e da avere, per cui arrivano davvero nelle case, come dici tu, spesso senza neanche sapere da chi, però è interessante poterne parlare. Qual è quello del quale non ti resti mai, Lorenza? Io probabilmente non mi priverai mai della trasparenza, quindi delle sedie trasparenti della Marie, degli specchi, delle lampade che danno veramente una luce bellissima in casa, della Bourgi, che è stata una delle lampade, è ancora una lampada icona di Cartel. E la trasparenza ti dà leggerezza in casa, può essere abbinata con qualsiasi stile, e trovo che sia veramente la nostra caratteristica degli ultimi 10 anni. E non sembra neanche plastica, perché comunque sono te la puoi immaginare come vuoi, no? La nostra sfida è sempre nobilitare la plastica, e quindi renderla. Abbiamo un vaso quest'anno al salone che sembra quasi vetro, e in realtà è un policarbonato. Quindi la nostra sfida è lavorare sulle superfici e anche sul materiale, e renderlo sempre più bello. Il vostro successo lo dimostra, però, che ci state riuscendo perfettamente. recentemente e da molto tempo. Grazie Lorenza Luti, grazie anche a tua nonna, grazie per quello che ci ha regalato. Vi ricordo il museo Cartel, cartel.it per tutte le informazioni. Buona domenica, ciao Lorenza. Buona domenica a tutti. Ettore Mocchetti, buona domenica. Buona domenica. Eccoci qui. Allora, siamo con il direttore di Architectural Digest, perché c'è una mostra in contemporanea al Salone del Mobile di Milano, anche se parte con un giorno di anticipo per essere presentata, e si intitola AD, la casa degli italiani, dal 1861 al 2011. Ettore, sorridevi perché molti dei prodotti che abbiamo così elencato con carte fanno parte delle case degli italiani. Sì, assolutamente, alcuni sono anche in mostra, no? Ci sono delle icone, la Cartel ha assolutamente delle icone, come si diceva prima, sono entrate nelle case, vuoi per il rapporto qualità-prezzo, vuoi per lo straordinario design. La Cartel ha fatto un percorso fantastico, no? Perché è partita facendo, credo, plastiche medicali ed è arrivata adesso ad essere veramente una delle aziende che ci invidiano tutto il mondo. Ecco, hai dei design in casa e non te ne rendi neanche conto, no? Anche, sì, assolutamente, no? Perché sono oggetti d'uso, soprattutto i primi, no? Casalinghi spesso, e poi diventano degli oggetti d'uso. La gente magari non li identifica, ma li conosce, insomma. Ecco, Ettore, dal 1861 al 2011, com'è cambiata la casa degli italiani? Direi che è cambiata molto. Cambiata molto in questo senso. Nel 1861 noi eravamo un paese agricolo, no? Come puoi immaginarti. Tranne la nobiltà o l'altissima borghesia o il clero, i nobili, che potevano fare delle case di alto livello, con mobili mutuati soprattutto all'inizio dalla Francia o dall'Inghilterra, però con uno spirito già italiano, cioè il gusto italiano è un gusto che ci invidia tutto il mondo, e questo è iniziato là. Non dico che l'ha iniziata la storia del design, perché la storia del design è iniziata tra le due guerre, ma però gli italiani hanno fatto delle case importanti, e basta pensare a quello che ha ricostruito Luchino Visconti nel Gattopardo, ha fatto una ricostruzione filologica di una casa nobile di quel secolo. E così quindi direi che c'era un binario doppio: da una parte l'Italia rurale, sai, era un grande tavolone, un'unica stanza, il camino che faceva da cucina, un lavello dell'acqua portata dalla pompa, e a volte si dormiva anche nella stessa camera per avere il caldo del focolare, e quindi l'Italia viaggiava su due binari paralleli, no? Poi naturalmente dopo la prima guerra mondiale ha iniziato i movimenti in Europa che hanno cominciato a industrializzare di quei mobili, no? Partendo ancora prima dal Biedermeier, poi pensando agli inglesi e ai francesi, e anche l'Italia ha risentito di quello. Però il vero cambiamento c'è stato dopo la seconda guerra mondiale. Dopo la seconda guerra mondiale gli italiani, con l'arrivo del benessere, quindi non pensavano solo al bisogno primario di avere un tetto sopra, ma di cominciare a mettere degli oggetti nella casa, e la casa ha cominciato a cambiare. E sta cambiando tutt'oggi, perché gli oggetti di design sono per il 40-50% nelle case oggi, mi sembra, secondo una ricerca effettuata proprio dal Cosmit. Ecco, Ettore, ti interrompo un secondo per chiederti questo. Secondo te questa grande presenza di design nelle case degli italiani è ricercata, oppure spesso è un po' casuale? Come dicevo, no? Ce la ritroviamo senza sapere di avere degli oggetti di culto in qualche modo in casa. Ma sai, il discorso è questo, cioè molta gente ha buon gusto e sufficiente cultura per andare a comprare l'oggetto di design conscia di quello che sì, prende. Sì, scegliendolo quindi. L'ha disegnato, cioè, sì, il materiale. Molta altra gente lo trova, diciamo così, è l'offerta, capisci? È l'offerta che è sempre più ampia in questi anni, e quindi la gente acquista, entra in un negozio di mobili. Se tu pensi a un negozio di mobili all'inizio del secolo, oppure subito dopo la prima guerra mondiale o la seconda guerra mondiale, e un negozio di mobili adesso, c'è un cambiamento epocale, soprattutto nello stile. Stile tra virgolette, perché oggi in realtà, bisogna dirlo, non è che esista uno stile, cioè un tempo sai, si parlava l'art nouveau, stile liberty, lo stile déco, no, oggi c'è uno stile che oserei dire è lo stile che tutti noi possiamo fare quello che vogliamo della nostra casa, cioè uno fa la casa a misura sua, come crede, con gli oggetti appunto che gira, sceglie, vede e mette nella casa. Molto hanno fatto le riviste di arredamento, non è che spezzo una lancia per le riviste, però le riviste d'arredamento hanno orientato un po' il gusto, soprattutto Adi ha cercato di orientare il gusto degli italiani da 30 anni a questa parte. Beh, è vero che ti fai comunque ispirare, è un po' sogni, perché sì, dici non lavoro mai nella mia vita, però bisogna vendere sogni, perché i sogni non costano nulla, soprattutto in questo momento di crisi. Però vedendo uno a un certo punto, parlavate prima della produzione carte, che è una produzione di non grande costo, perché tu puoi prendere degli oggetti di buonissimo design, validissimi anche come materiali, a dei costi più che accettabili. Il problema oggi è quello delle grandi copie, e purtroppo è come il caviale, poi c'è il succedaneo del caviale. Noi italiani siamo molto copiati. Ma è successo, si paga sempre così, questo vale per tutte le arti, non c'è niente grande da fare. Successo, grande capito, quindi sì. È bellissimo questo, tutto sommato, allora, non lo vedo come fattore negativo. No, ma anch'io, assolutamente, bisogna combatterlo per una questione economica ed è giusto farlo, però è chiaramente quando uno è bravo e fa delle belle cose, è chiaro che verrà copiato, questo vale, è una regola. Ettore, io ti chiedo di rimanere in linea, ci sono aggiornamenti sul traffico, perché poi cerchiamo di capire cosa è successo al consumismo, perché le case durante il consumismo sono diventate una certa cosa e adesso forse quel periodo un po' se n'è andato e sta cambiando. Il riposo del guerriero. Sono Ettore, con Ettore Mocchetti al telefono, da 30 anni alla guida di AD. Allora Ettore, stavamo parlando di come è cambiata la casa degli italiani, ci stavi raccontando, e siamo arrivati agli anni 2000, no? L'ascesa, e tu dici anche la caduta ormai del consumismo. Sì, direi che più che caduta del consumismo, insomma, qui siamo una società del superfluo, attenzione, cioè, perché i bisogni primari sono avere un vestito addosso, un tetto sopra e mangiare. È chiaro che l'uomo, dico dall'inizio, ogni tanto quando mi fanno le domande perché tutto si fa tutto questo, nella moda come nel design, io dico scusate, allora l'uomo primitivo che bisogno aveva di prendere una ciotola che aveva forma e funzione perfetta e decorarla o farla in varie forme? Perché dobbiamo sempre soddisfare il piacere, esatto. Non c'è niente da quindi fare. Quella è la risposta immediata. Quindi voglio dire, noi a questo non possiamo rinunciare, certo che gli orientamenti cambiano. Stiamo parlando di low cost, ma anche le grandi aziende oggi che hanno del design di grande qualità e che costa fare design di qualità, e poi non dimentichiamo che noi abbiamo un vanto in Italia, i designer ormai sono globalizzati, tu sai, arrivano da tutto il mondo, dal Brasile, abbiamo Campana dal Brasile, insomma adesso non ti faccio nomi, ma arrivano da tutte le sparche francese o apolide, come vuoi tu, però dove devono arrivare per produrre le loro idee, i loro disegni e i loro sogni? Solo le aziende italiane sanno fare questa qualità e hanno il DNA della mano intelligente italiana che può produrre queste cose. Io su questo batto molto. Noi abbiamo una grande forza in Italia di queste aziende che ormai sono capaci di fare degli oggetti straordinari, e quindi la sfida che stanno avendo in questo momento è di ridurre i costi, ridurre i prezzi e mettere sul mercato delle cose straordinarie che poi saranno anche copiate, ma non ci interessa, ma a un prezzo buonissimo. Ecco, questa è la grande sfida, perché oggi purtroppo i metri quadri si riducono, i costi del metro quadro per chi va a comprare una casa è notevole, come tu sai, quindi le case sono sempre più piccole. Negli anni 50 e soprattutto 60 e 70 c'è stata una tendenza, la casa si ingrandiva, la gente aveva più locali, adesso si va dal monolocale al bilocale, al trilocale, ma tutto è piccolo. Cosa succede? Che il design sta facendo degli sforzi per mettere dei pezzi notevoli, importanti, piacevoli, che ti facciano della casa sempre il nido che tu hai desiderato, a un prezzo buono, ma che non vadano ad affollare troppo la casa. Cioè, per fare un esempio stupido, sì, cioè uno passa, vede questa, la mostra, noi abbiamo 200 immagini enormi in cui si vedono la trasformazione della casa, non c'è più il buffet con tre buffet e tavoli in mezzo, che richiedeva una stanza, come ti ricorderai, sì, sicuramente, ecco, e i nonni ecco, allora è chiaro che oggi ci sono mobili plurifunzionali, ma che sono partiti dal genio dei nostri design. Se penso a Gioia Colombo, che è stato un grande, cosa ha disegnato per Boff? Il famoso cubo, la cucina che stava in 1,20, 1,50, non mi ricordo esattamente le misure, diciamo un metro per un metro, poco più, con tutte le funzioni dentro. Quindi oggi il design va a produrre delle cose straordinarie, anche non minimali nella forma, ma anche minimali per gli appartamenti dove devono essere, ecco, posizionati. Non c'è, quindi, scusami, adesso magari sto dicendo una castroneria, ma è molto interessante, una castroneria mi viene così. Non si sta tornando un po' agli anni 70, dove appunto lo spazio era ridotto e si cercava di mettere tutto insieme? Vedendo la mostra, è veramente invito, la mostra è libera, è gratuita, ed è una mostra tra l'altro interattiva e multimediale, tu ti trovi nelle stanze, vedi delle cose incredibili, e vedi anche più di 70 aziende italiane che hanno fatto, sono state un po' le icone del nostro tempo. Tu vedi proprio che negli anni, è centrato bene, direi più degli anni 60, fine 60, gli spazi erano ridotti in quel momento, e lì c'è stato un grande studio da parte dei nostri designer sui pezzi, è vero, e oggi c'è un ritorno, però direi che oggi il design stupisce anche, cioè il design oggi non è più forma e funzione solo come si voleva dire, c'è un grande dibattito, una grande discussione su questo. Oggi il design emoziona, perché purtroppo siamo, come ripeto, in una società di mercato, e se tu oggi vendi solo le emozioni, tu vendi questo vale emozioni. Anche per la moda, ne abbiamo parlato anche recentemente. Assolutamente vale per un pezzo, ti deve emozionare, anche perché, come ho detto, oggi la casa la fai tu, vale tutto il contrario di tutto. Sai, magari vai, che ne so, in un posto esotico, ti piace un certo pezzo, lo prendi e poi devi inserirlo, oppure hai un bellissimo pezzo di antiquariato che ti proviene dall'eredità, dai nonni, o lo vedi da me e dici voglio metterlo. Oggi vale tutto, tu puoi avere uno straordinario Fontana su un bureau Luigi XIV, o viceversa una bellissima tela del 600 su uno straordinario mobile lineare prodotto oggi. Direi la casa stile libero, chiamiamola così. Sì, esatto, proprio così, è fresca, cioè direi che è una casa di contaminazioni soprattutto. Ecco, io l'ultima domanda, ma hai solo un minuto, Ettore, sì, anzi un pochino meno. Ma è molto interessante. Se vuoi ti rimando anche dopo il GR. Volevo chiederti della casa, come si è trasformata oggi all'epoca dei social network, se in qualche modo sono entrati anche loro. Guarda, noi abbiamo un ultimo diciamo appuntamento nella mostra che si chiama Visioni dal futuro. Passano solo due o tre filmati in cui si vede una casa totalmente trasformata da quello che è l'era digitale, cioè dall'avvento del digitale. Ecco, basta, non dire più niente, Ettore, perché dobbiamo andare al GR. Deve essere una casa amica, quell'unica cosa che ti voglio dire. Ecco, scopriamola davvero alla Fiera Milano City, Padiglione 2, e alla Porta Scarampero, alle 17 al 22 aprile, a D, la casa degli italiani, la 1861 al 2011. Grazie davvero, grazie Ettore Mocchetti. Grazie agli ascoltatori. E complimenti per la rivista che tu dirigi da 30 anni e che ci ha sempre fatto sognare. Riposo del guerriero torna dopo il GR. Il riposo del guerriero. Le 11:07, ancora buona domenica da Stefano Gallarini, continua il riposo del guerriero. Oggi stiamo parlando degli oggetti di culto, adesso racconto quali sono i vostri, a chi ha scritto al 349-238-6666 o sulla pagina di Facebook, e poi continuiamo a parlare con i nostri ospiti. Per esempio, allora, il mitico Penny, non so se lo ricordate, era un mangiadischi, erano quelle cose che si portavano in giro. Gian Gabriel, dovete sapere, è in assistenza oggi, che saluto, e non so quanti anni abbia Gian Gabriel, 20 qualcosa, 25 anni, sto parlando di cose e mi sta guardando con una faccia, mi dire ma di cosa stai parlando, non ha visto niente, non ha sentito niente, ti porterò il penny, non ce l'ho, c'è la foto. Ero in mangiadischi, una volta si usavano quelli, questa puntina che tac andava sul disco. Vabbè, allora le tazze di Starbucks per Roberto. Ancora Raffaella dice mi piacciono i fazzoletti di Venini, sono dei vasi che sembrano dei fazzoletti piegati, li avrete visti sicuramente mille volte. Qualcuno invece ricorda l'Olivetti Valentine. Ancora la lampada Berenice e il bollitore Alessi col design di Philip Stark, o anche il lemon squeezer sempre di Philip Stark. Devo dire che uno dei designer più famosi è stato proprio Philip Stark, ogni volta disegna una cosa, non so perché, ma piace, con le sue forme sempre un po' rotonde. Poi ovviamente la Brion Vega 502 che molti hanno avuto in casa senza sapere che era da tenere, qualcuno tipo io, mia madre, la Quadrifoglio anche, o la Brion Vega l'ha buttata via perché è una radio, certo all'epoca, ma oggi sarebbe stata da tenere ovviamente. Giuseppe Davino, buona domenica Giuseppe. Buona domenica, buongiorno. Amministratore delegato di Strega Alberti, parliamo di un premio che è diventato diventato un vero e proprio cult, è un oggetto di culto, anche se è un premio non può essere un oggetto, però i libri che poi possediamo e che andiamo a comprare e leggiamo diventano libri in qualche modo di culto. Il premio Strega, raccontiamo un po' la storia, perché era legato al liquore Strega, ma oggi ormai è proprio sinonimo di letteratura. Sì, la storia è interessante perché segue di pari passo quello che è stata l'evoluzione della società italiana, cioè questo premio nacque nel 1947 dall'amicizia di mio cugino Guido Alberti, che allora era amministratore dell'azienda che ancora oggi amministro io, e i coniugi Bellonci, Maria e Goffredo Bellonci. Si usciva dalla guerra, si era a Roma nell'ambito dell'atmosfera di Via Veneto, voi vi ricordate, quegli anni erano sicuramente fecondi, importanti, e da questa amicizia nacque l'idea di istituire un premio letterario, e così nacque il premio Strega. Ecco, che premio che poi dal 47 a oggi è diventato sinonimo di, ovviamente, di qualità, di letteratura, e ormai non lo si collega più al liquore dal quale è partito. Noi lo colleghiamo ancora al liquore del cui è partito, perché per noi è molto importante, è un po' un'icona, sono tutte le icone, la stessa nostra bottiglia con questa forma tronco-conico rovescia, è stata più volte messa in relazione agli oggetti culto italiani, così come la lettera 22 delle Olivetti, sì. L'Olivetti, la penna Bic, insomma questi oggetti che nel quotidiano poi sono diventati un po' di culto, ed è un pochino un'icona nel momento in cui il vincitore del premio Strega la alza tipo Coppa Remake nella sera del primo giovedì di luglio, che è la sera in cui si conferisce questo premio. Ecco, una cosa incredibile però, appunto, che il premio è diventato particolarmente importante, no? Quindi è questa la grande forza. È uno di quei casi in cui diciamo uno spin-off è cresciuto quanto la cosa di cui è partita, perlomeno. Sicuramente la qualità che esprime il premio Strega sta nel fatto che i lettori, come diciamo con Tullio De Mauro, che è il presidente del comitato scientifico del premio, appunto ricordano il fatto che il lettore si fida del premio Strega, nel senso sì. Che con gli anni il premio Strega ha fatto in modo che la qualità dei prodotti che esprimeva, sia per quanto riguarda i libri finalisti della Cinquina, sia per quanto riguarda il vincitore, fosse una garanzia di qualità per il lettore, che quando vede sulla scaffale della libreria la si fida, si fida e lo acquista. Sì. Ecco, volevo capire questo, Giuseppe. Secondo te il successo del premio è dovuto anche alla scelta, immagino, della giuria? Sicuramente, questa è un po' una caratteristica del premio Strega rispetto a tutti gli altri premi letterari, dove non c'è una giuria tecnica, ossia sì. Sin dall'inizio, il nome completo del premio è Premio Strega degli Amici della Domenica. E questi amici della Domenica erano appunto degli amici che frequentavano il Salotto Bellonci durante gli anni 40 e che si vedevano per discutere di letteratura e questo facevano. Loro stessi hanno costituito il nucleo originale di questi amici della Domenica, all'inizio erano un centinaio, adesso sono cresciuti, sono circa 400. I criteri con cui vengono scelti sono sempre criteri di appartenenza alla società civile, non è una giuria necessariamente tecnica. E questo forse è un po' il segreto del successo. Sì, del premio. Perché ovviamente alla fine è un premio che ci appartiene, no? Anche i romanzi che vincono i premi ci appartengono, perché è una critica un po' più vicina, penso, al lettore, e questa è la forza. Sì, è molto successo, interessante, immagino, questo è verissimo, è stato fatto uno studio per vedere come è evoluta la tematica e la poetica dei libri che hanno vinto il premio Strega ma negli anni, durante questi 65 anni che sono stati caratterizzati dal premio Strega, e si è visto come la tematica è sempre volta a quello che in quel momento la società civile percepisce come importante. Per anni si è parlato di libertà democratiche, dei tempi di Pavese, poi si è parlato del problema del lavoro con Rea e con Primo Levi. Ancora oggi la tematica del lavoro è molto presente nei libri che concorrono, e quindi sicuramente è uno spaccato della società civile. Bene, quindi adesso vedremo a luglio, giusto, chi porterà a casa il vostro premio. Complimenti per quello che fate e a quello che anche create al di là del premio, perché voglio ricordare Strega da dove è arrivato. Grazie ancora. Giuseppe Davino, buona domenica e salutiamo anche il nostro Enrico Groppali. Ciao Enrico, buongiorno. Ciao, come stai? Bene. Come state voi di Radio 24? Benissimo, come no, certo. E un oggetto di culto, sei tu anche un oggetto di culto, secondo noi. Speriamo ormai che non sia un oggetto di culto ancora da consegnare al museo sotto vuoto spirito. No, no, da tenere oggetto lì. Oggetto e soggetto magari di culto. Ecco, bravo, un soggetto di culto, mi piace molto di più. Bravo Enrico, grazie di questa precisazione. E allora, parliamo di, appunto, oggetti di culto che riguardano il mondo della letteratura e del teatro e del cinema. Sì, beh, oggi stiamo assistendo a un fenomeno proliferante e anche inquietante, anche se ve lo spiegherò in pochi minuti, perché oggetto di culto non diventa soltanto il divo vivente o il divo estinto e ciò che ci ha lasciato di sé, addirittura i frammenti magari di un discorso amoroso, si può dire con Roland Barthes, come una registrazione televisiva, una registrazione radiofonica, quindi dove lo vediamo magari non alle prese con la lavorazione di un film, ma nel suo privato, eccetera. Ma addirittura la casa del divo, la casa del delitto diventano oggetti di culto, l'abito indossato nella vita, il costume indossato nel film, il set, vedi il caso del famoso film Marocco con Marlene Dietrich che anni fa è stato ricostruito con assoluta fedeltà in un museo romano e quindi un oggetto non di culto ma un oggetto diciamo di sembianze passate, presenti, che trasmigra dallo studio in cui sono state effettuate le riprese di un film al museo itinerante che ne ospita la replica. Oggetti di culto diventano il film, il disco, l'ectoplasma, vedi per esempio anche un caso eclatante che è quello di Mina. Mina naturalmente non appare in televisione, non appare in pubblico e oggetto di culto diventa la sua stessa assenza o le tracce che l'assente dissemina in ogni parte del mondo, da ogni parte del mondo italiano. Mina giornalista sulla Stampa, sì. Mina e i suoi dischi che cantano con la sua inimitabile voce, Mina e le sue vecchie registrazioni televisive che vengono raccolte dai suoi fans e diventano delle reliquie. Naturalmente non delle reliquie in senso religioso, ma quasi. Quindi ci sono, per esempio, e poi si vaga praticamente dall'oggetto di culto che diventa il luogo che ha ospitato il personaggio o reale o immaginario, penso per esempio al castello di Dracula, addirittura al culto della maglietta che riproduce il volto dell'assente, da Elvis Presley a Marlon Brando fino a Marilyn, addirittura al viso deformato dall'odio di Maria Callas nelle vesti di Medea che in molti t-shirt è stato riprodotto da più di 50 anni. Ecco. Quindi, l'oggetto di culto che comincia praticamente dalle reliquie dei santi, poi si dilata al luogo, il luogo delle apparizioni mariane, a Lourdes, a Fatima, sì, a Medjugorje, a un certo punto sfocia, e questo è uno dei caratteri più spaventosi del nostro tempo, addirittura al teatro più efferato, quello del fatto di sangue. La villa hollywoodiana dove la povera Sharon Tate, fu uccisa dalla banda di Manson, che ancora oggi è oggetto di pellegrinaggi negli Stati Uniti, se non addirittura i pullman che vengono organizzati per vedere l'esterno della casa, pardon, il garage dove è stata uccisa la povera Sara Scazio, la villetta di Garlasco, teatro proprio di un altro efferato delitto di sangue, quello di Chiara Poggi. Quindi a un certo punto praticamente si trascorre dalle case degli scrittori, che sono un oggetto di culto non efferato, ma che semmai spingono alla penetrazione, alla lettura, alla meditazione sulla loro opera, che però appaiono vetrificate sotto vuoto spinto, come la casa di Georges Sand a La Châtre, la casa di Balzac a Parigi, quella di Tolstoi a Mosca, di Strindberg in Svezia, e ce ne sono esempi innumerevoli. Ma la reliquia praticamente si sposta di segno, diventa un simbolo vivente dell'immaginario, perché soltanto appropriandosene con gli occhi, stringendo tra le dita un frammento di abito, un frammento, non so, di una penna, di un oggetto che è appartenuto all'assente, colui che visita questi luoghi si illude di conferire una vita o addirittura di colloquiare con la persona che non c'è più, facendola compartecipe della sua vita vivente, soltanto toccandone le spoglie. Quindi praticamente l'oggetto di culto diventa un segno e chi naturalmente ne fruisce crede di esserne portatore. persino la voce registrata di un politico, il documentario che riproduce l'assente, e quindi ce ne dà il fantasma immaginato e immaginario, ma che vediamo su uno spot televisivo, su uno schermo televisivo. Tutto diventa a un certo punto oggetto di culto. E poi anche con la comunicazione questo è ancora più facile, ovviamente. È ancora più facile, certo. Certo, il maggior oggetto di culto vivente è l'oggetto soggetto della persona papale che ogni domenica appare sulla piazza di San Pietro, dall'alto del Palazzo Vaticano, e arringa la folla. Quello è un soggetto di culto vivente, naturalmente ineliminabile, ma abbiamo anche degli strani oggetti di culto. Per esempio, anni fa vidi in televisione... Aspetta Enrico, ti devo bloccare, scusami, ne parliamo tra un minuto, perché devo dare aggiornamenti sul traffico, siamo un po' in ritardo, e poi ci racconti questi. Il riposo del guerriero. Enrico Groppari, ci stavi raccontando, scusa. No, ma di nulla, dico che ormai stiamo passando da quello che è un vero e proprio oggetto di culto, assolutamente spontaneo, e creato proprio non dal miracolismo, ma dall'essenza stessa del miracolo, sia per i fedeli che per coloro che sono semplicemente dei curiosi, degli osservatori. La grotta delle apparizioni proprio mariane a Lourdes, penso proprio a questi luoghi che sono diventati il simbolo della fede. Per esempio, anni fa vidi in televisione, in un servizio di cui non ricordo bene il nome, una piccola parte di un documento sconvolgente, e cioè credo che fosse dedicato alla vita e all'opera di Orson Welles, naturalmente quando morì. E si vedeva Orson Welles che dirigeva se stesso, allora ovviamente soggetto vivente, mentre intervistava nella sua villa sull'Appia Antica Gina Lollobrigida. Quindi eravamo a un colloquio tra il vivente, cioè tra il vivente di oggi, il vivente Gina Lollobrigida, e il defunto. E la cosa più curiosa è stata che anni dopo, intervistando Gina Lollobrigida, le parlai di questo episodio. E lei si dimostrò non solo interessata, ma molto dispiaciuta e rattristata, perché disse quello era il frammento di un film di una mezz'oretta circa che lui ha proprio girato su di me, sul mio mondo immaginario e immaginato, venendomi a trovare a casa. Non è stata soltanto un'intervista registrata, è stata proprio una specie di compenetrazione tra me, attrice, e il luogo. Certo, era voluto, era costruito. Era voluto, costruito. Ma me l'hanno anche rubato, dice questo film, in un hotel di Parigi, e mi è rimasta soltanto questa piccolissima immagine in cui io appaio insieme ad Orson proprio sulla soglia della mia villa. Quindi io praticamente non ci sono ed è soltanto la sua immagine che riempie lo schermo. Ora io non ho adibito questa piccola immagine, non la ritengo un oggetto di culto, ma è diventato un oggetto di culto per i cinefili, per si è trasformata in questo, ovviamente, perché poi l'oggetto di culto è quello che poi anche noi facciamo diventare tale, e quanto abbiamo sentito anche da te, tutto lo può diventare. Grazie Enrico, ci sentiamo domenica prossima. Buona domenica, naturalmente. Grazie. Come al solito e più del solito, arrivederci. Ciao. Grazie, ciao Francesca Dragotto, ciao, buongiorno. Buongiorno, buona domenica. Oh, buongiorno e buona domenica a tutti. Stavi voi ascoltando Enrico, io lo so, ti conosco. È vero. Allora, anzi, mi fornisce uno spunto per sintetizzare tutto quello che è stato detto finora con: ci sono oggetti di culto che sono oggetto di culto. Sono due cose differenti, non è la stessa forma linguistica, o meglio sono due forme nell'espressione perfettamente coincidenti, ma che rivelano due storie linguistiche fortemente diverse. Nella prima parte della puntata avete parlato di oggetti di culto nel senso del cult dell'inglese, nella seconda parte invece di un italianissimo oggetto di culto che infatti fonda le proprie radici nella pratica religiosa. Sono due cose diverse. Infatti qui sarà straordinarietà di Enrico Groppari, no? Che ha letto culto in quel modo, appunto per, nella tradizione del riposo del guerriero, sai che è la visione ampia della parola e anche dell'argomento della settimana, e quindi direi che è uno spunto interessante, hai fatto molto bene a sottolinearlo, e poi andiamo avanti con quello che hai preparato, perché è una sorpresa per me Francesca oggi, ve lo dico subito. Beh, Sì, diciamo che vorrei spendere proprio due parole, visto che siamo in ritardo, sì. Sul cult, perché si tratta di un termine inglese che penetra in italiano intorno alla fine degli anni 70 e penetra attraverso il linguaggio della critica cinematografica. Più o meno il 79, quando su alcune riviste in cui si parla di film viene utilizzata per la prima volta l'espressione cult movies, quindi film, noi tradurremo poi in italiano di culto, che va ad affiancare un'altra espressione, anch'essa un forestierismo che era utilizzato fino ad allora per parlare appunto di film di grande oggetto di grande ammirazione, parlo di film d'essai, in questo caso con un francesismo. Però appunto l'espressione essere oggetto di culto è un'espressione del tutto italiana, nel 300 la troviamo anche nella forma essere obietto di culto, perché alla base della parola oggetto c'è appunto un latino obiacere che significa gettare contro, mandare avanti. Ora, fatta questa premessa di carattere diciamo proprio squisitamente etimologico, oggi mi piacerebbe invece porre l'attenzione su cosa accade quando una parola o una locuzione oggetto di culto è troppo oggetto di culto, ovvero cosa accade quando l'idea quando una parola diventa uno stereotipo, quando una forma espressiva diventa talmente logora e abusata da perdere completamente o in gran parte il significato che prima la contraddistingueva e per cui ha iniziato ad essere utilizzata. Quindi mi riferisco a quelle che molti prima di me, e io mi rifaccio a tutti quelli che l'hanno fatto, hanno chiamato la lingua di plastica. Ci sono tantissime parole che ormai sono talmente logore che hanno finito per perdere il loro valore sia denotativo che connotativo, quindi finiscono per perdere proprio l'espressività. Vi faccio un esempio, prendiamo la parola tragedia. Sì. La parola tragedia, basta entrare in utilizzare un qualunque motore di ricerca, vediamo che non soltanto compare con un indice di frequenza spaventoso, ma che ogni volta che accade un evento luttuoso o inaspettato, naturalmente dai connotati tragici, immediatamente va a comparire in cima alla lista, per cui soltanto inserendo tragedia della vediamo che ne compaiono è tutto tragedia, è tutto, qualunque cosa. Esattamente. La vera e propria tragedia è invece anche il fatto che tragico non è. Ecco. Sì, certo, perché poi che succede? Che essendo tutto tragicizzato, quando accade qualcosa che è realmente tragico, la parola tragedia finisce per non dare più le giuste dimensioni del fatto. E lo stesso accade con tantissime altre parole. Pensiamo a emergenza, svolta, problematica e tematica, che hanno scalzato recentemente i più corretti problema e tema. Ecco. Parole che Tu hai toccato una delle parole che io veramente ormai vorrei eliminare, perché un certo tipo di giornalismo ormai ci ha abituati a emergenza qualunque cosa, veramente qualunque cosa, c'è una goccia di pioggia, emergenza maltempo, ma è davvero così, per cui alla fine l'emergenza non la, è verissimo, quello che dici non la percepisci più come tale, assolutamente, l'emergenza non lo è più, per cui io vorrei chiedere davvero di eliminarla per un po' dai titoli in generale, ecco, soprattutto quando non lo è, davvero, perché ormai è tutta emergenza, se no non fa ascolto, tra virgolette, diciamo. Sì, perché si tratta di parole civetta, parole di grande richiamo che sono facili da utilizzare e che soprattutto ormai fanno parte di un immaginario collettivo che scatta immediatamente quando il termine viene utilizzato, si presta poi all'inserimento nei titoli di giornale. Ne abbiamo veramente tante e a tutti i livelli della lingua, pensiamo anche all'uso di sogno, oppure penso a una cosa su cui ha fatto un approfondimento Severnini, all'uso di solare per definire il comportamento, cioè il carattere più che il comportamento, il carattere di una persona. Sono veramente tante. Notavo in un articolo a firma di Giorgio Bocca, che lo stesso carattere di plasticità viene attribuito anche a non posso passarle il mio capo, la persona che lei sta cercando, perché è riunione, dove quel perché è riunione è in realtà un equivalente di sta facendo qualcosa di più importante per cui non può parlare con lei. Molto vero. Per cui si tratta di ormai vere e proprie parole mattoncino, anche qui vado a saccheggiare un autore tedesco che ha utilizzato l'espressione parole Lego molto prima di me, parole mattoncino che si mettono lì perché rassicurano l'interlocutore, perché appunto essendo molto utilizzate vengono facilmente comprese, però questo fa sì che ci sia proprio una perdita del reale potenziale comunicativo dell'atto, del discorso, perché per l'appunto sono talmente, talmente state utilizzate e per talmente tante cose differenti da aver ormai perso il loro mordente. Ecco, allora io vi ricordo, per continuare il racconto di Francesca Dragotto, c'è Tuttopoli, lo diciamo, che è il blog. Grazie. Costruito apposta, e poi c'è anche la pagina di Facebook, ormai ti arrivano tante di quelle domande, fatele, perché Francesca è sempre felice di rispondere, per cui è lì pronta, e questa è una grande qualità. Nessuna emergenza, Francesca Dragotto, assolutamente. Grazie, ciao. Qualche ritardo sì, ma emergenza no. Grazie, ciao, ci sentiamo domenica. Grazie prossima. Grazie a voi. Buona domenica ancora, il momento del gastronauta. Il gastronauta. Ciao Davide, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. È vero, ormai ci sono parole che hanno perso di senso, tanto le usiamo e soprattutto tanto ne abusiamo, soprattutto. Parole, parole, parole. Davvero, sì. anche nel mondo enogastronomico. Credo come che... tradizione, eccola, territorio, cioè ormai ce ne sono tanti. Cucina rivisitata, sicuramente rivisitata cosa? Appunto, in che senso? Che di entrare in chiesa. La faccio a mio modo e quindi è rivisitata per forza, anche rivisitata. Quando facciamo gli spaghetti al pomodoro e siamo rivisitati da mia nonna, da me, da mia mamma, da te. Senti, però come facciamo a non usarle? Perché in qualche modo dobbiamo identificare le cose. Bisogna usarle, bisogna avere anche un po' di fantasia probabilmente, ma descrivere in maniera nuda e cruda, cioè si descrive un piatto senza bisogno di risalire poi alla nonna, allo zio, al babbo o d'altro, cioè non è che si rivisita, se quella minestra è stata fatta quel giorno da una persona che ci ha messo un tocco di personalità, è sua, non è che appartiene esatto. ad altri, insomma. E quindi, come dico sempre io, la tradizione è un'innovazione riuscita, quindi diciamo che la tradizione non è ferma, si rinnova sempre. Senti, ma ho sentito che stamattina si parla molto di cult. Sì, proprio, certo. E dell'argomento, io volevo ricordare che c'è un qualcosa, ci sono diverse cose di culto anche sicuramente nel cibo e nel vino, e c'è una bottiglia in particolare, davvero molto divertente questa storia, ed è un Barolo del grandissimo produttore Mascarello di Barolo proprio, che ha sede a Barolo, che anni fa, durante un periodo elettorale, fece un'etichetta al suo Barolo che era no Baric, no Berlusconi. Ebbene, questa bottiglia, una di queste bottiglie, non sono tante, venne messa in vetrina in un'enolibreria di Alba, nella via principale, famosissima questa enolibreria, perché tutti capitano se vanno ad Alba, perché ci sono libri e ci sono prodotti. Bene, venne messa in vetrina e per un esposto questa bottiglia venne arrestata. Venne arrestata perché era il periodo di silenzio elettorale, quindi sì. Non si poteva fare propaganda politica. Da quel punto lì è diventata famosissima ed è abbastanza introvabile questa bottiglia, quindi sicuramente è una bottiglia di culto non tanto per il Barolo, sempre straordinario, di Mascarello. È un oggetto del desiderio. Oggetto del desiderio. Come ultimamente ho scoperto che c'è un rum che si chiama Caroni, sì. E io non sono un grande esperto di distillati, lo confesso, però mi sono informato e anche questo rum Caroni, che è un'azienda chiusa, è diventato un fatto di culto, c'è cioè un mercato, non dico clandestino, un mercato nero delle bottiglie che sono rimaste di questo rum Caroni, che vanno veramente a ruba. E quindi anche questa è un'altra grande bottiglia di culto. Poi devo dire che anni fa, ora il chinotto è diventato molto diffuso e quindi ce ne sono di tante marche, però fino a qualche anno fa, 7-8 anni fa, il chinotto era introvabile, come era introvabile il chinotto neri, con lo slogan «se bevi neri, ne ribevi», famosissimo negli anni 60-70, e anche questo ormai, cioè ora è tornato a essere distribuito, però le vecchissime bottiglie sono abbastanza rare, come rara quella bottiglia di Verdicchio con quella forma, diciamo, molto molto particolare, che credo che la bottiglia fosse stata disegnata da Gio Rossi, così almeno credo, anche quella, cioè, è un'altra bottiglia di culto. Ovviamente di culto c'è poco di deperibile, quindi mi rivolgo al mangiare. È difficile che ci sia un formaggio di culto, perché prima o poi te lo fai fuori. Però ci sono dei produttori che sono di culto, nel senso che, ad esempio, c'è un prosciuttificio friulano, sì, che si chiama Dosvaldo, che i suoi prosciutti non sono tantissimi e quindi anche lì c'è la caccia quando diciamo entra la nuova produzione di accaparrarsi uno di questi prosciutti. Quindi sicuramente nel cibo c'è, ma in minor misura, e devo dire che forse le più grandi bottiglie di culto sono Bordeaux 1961, che è quella che è considerata veramente, lo è, l'annata del secolo. Ecco, trovare queste bottiglie qua, insomma, bisogna anche cacciar mano al portafoglio, perché sicuramente... Andate nella cantina di Davide Porrini che magari la trovate. No, 1961 mi spiace, non niente, ce non sa, quindi... posso dirti una cosa, sì, che una bottiglia invece di Chateau Lafite del 1945. Ah, vabbè, ecco. Tutti pensano che il 1945, siccome era ancora praticamente in guerra... Sì. E che non ci sia stata la produzione, in realtà c'è stata sì. La produzione, e ci sono anche dei grandi vini, come ci sono dei grandi vini libanesi, Chateau Mazur, Chateau Mozart, che è un produttore libanese, si chiama Oshar, famosissimo, e il quale diciamo gli mancano delle annate perché le bombe non gli hanno permesso di vendemmiare. Ma comunque anche questo sicuramente sono delle annate che possono diventare le annate appunto caccia dei collezionisti. Andremo a caccia di queste bottiglie. Grazie Davide, ci sentiamo domenica prossima, buona domenica. Buona domenica a tutti nonostante la pioggia. Come no, certo, è sempre una buona domenica, deve esserlo. Allora, tra poco giocheremo al mistero in 24 minuti, ci sono 1000 euro per voi da spendere su libreriarizzoli.it, il numero verde 800 24 00 24, le previsioni del tempo. Un mistero in 24 minuti. Fino a 1000 euro da spendere su libreriarizzoli.it 800 24 00 24, di corsa, il primo indizio. Della pelle, delle ossa, più dei sassi, più dell'erba, più di tanto, più di tutto, più del porto, più dei tedi, dell'inverno, dell'estate, più dei cavalli, del cortile, più mai più. Ciao Laura, buona domenica da Roma. Ciao Stefano. Eccoci qui. C'è stato un uomo nella tua vita che ti ha detto tu sei più di qualunque altra cosa? Più di sì, uno, meno male. Allora Laura, siamo a 1000 euro per te, può essere un personaggio, qualcosa di famoso, una notizia, se vuoi dare la risposta, se no come sempre sai sì. Che c'è un secondo indizio, ma scendiamo a 500 euro. Allora, io provo a darla, anche se mi sembra molto semplice, però, allora, è la notizia dell'Istat, produzione industriale a picco e pane e pasta sempre più cari. Che bella notizia. Grazie sì, Laura, ci volevi grazie tu per ricordarcelo, buona domenica, non sai che non grazie. Si sa, magari la risposta è giusta ma non posso dire nulla, ciao, grazie Laura. Certo, ciao, grazie. E intanto mi fa sorridere Cristina, ha scritto un messaggio, dice nonostante la pioggia, aveva chiuso così Paolini, dice eravamo in siccità, è benedetta, meno male che c'è, e soprattutto, vabbè, Isabella da Milano, pronto, buona domenica. Ciao. Anche a te Stefano e grazie per queste ore piacevoli che mi fanno compagnia mentre devo stirare, devo rassettare la casa. Grazie, vuoi venire anche da me a stirare? No, scherzo. È una delle cose che veramente è insopportabile stirare. Siamo in tanti. Vale per tutti. In questo modo. Allora Isabella, cosa vuoi fare? Io ci provo, io ho pensato sì. Al rifiuto della prima comunione a un disabile psichico da parte, mi sembra, del vescovo di Ferrara. Non posso dire nulla, ovviamente, grazie però Isabella, ecco, anche tu con una notizia che non è molto bella, grazie, ciao, buona domenica. Grazie. Come sempre grazie. La risposta al 24esimo minuto, Antonio da Torino. Ciao Stefano. Ciao Antonio, eccoci qua, cosa vogliamo fare? Ah, io stavo montando gli scaffali per i libri, quindi adesso magari rispondo. Stai montando il bookworm di Cartel di cui abbiamo parlato oggi. Secondo me il prezzo della benzina che è diventata veramente... Ma siamo arrivati a 3 euro o non ancora? Non lo so, perché sai ogni giorno qua... Ogni giorno 5 centesimi. La sfida era arrivare a superare i 2 euro adesso, siamo lì quasi. Grazie Antonio! Ciao. Ciao. A montare la libreria. Gli aggiornamenti sul traffico, poi c'è Lucia dalla provincia di Genova. Un mistero in 24 minuti. Lucia dalla provincia di Genova, buona domenica. Sì, ciao, buona domenica. Ciao Lucia, siamo ancora a 1000 euro, sai? Io però avevo pensato, come la prima che, persona che ha risposto, banalmente agli aumenti dell'Istat. Non posso dire nulla. Cosa vuoi fare? Ascoltare un secondo indizio? No, mi fermo qua. Vediamo cosa succede. Intanto ho ascoltato una canzone di Baglioni che amo molto. Purtroppo non neanche ho avuto a far ascoltare molto. Però succede questo, Lucia, che se tu mi dai la stessa risposta e fosse quella giusta, non porti a casa niente. Allora proviamo col secondo indizio. Brava, cambiamo la risposta. Va, magari ti viene in mente qualcos'altro. Eccolo qui, 500 euro. E invece questa è vita ed è un piacere. Possa vedere, e com'è bello anche per un ometto farsi corteggiare un po'. Eccolo qui, questo è il secondo indizio. Mi spiace non poterla far ascoltare tutta, ma è una straordinaria canzone di Fabio Concato. Mancano 5 minuti alla soluzione del mistero. Tra l'altro è uscito anche il suo nuovo album proprio in questi giorni, si intitola È festa. Il momento, quando è festa, uno può concedersi il tempo con la persona amata. Allora, Lucia, questo è il secondo indizio, è festa. Siamo non mi ha fatto venire euro. In mente nient'altro, quindi mi fermo qua. Piacere di aver parlato con voi. Grazie Lucia, piacere mio. Buona domenica. Un'altra volta, grazie. Ciao. Ciao, grazie a te. Luca da Roma, buongiorno Luca. Ciao, buongiorno Stefano. Allora, abbiamo due indizi, 500 euro qua sul mio tavolo. Cosa vogliamo fare? Avevo pensato anch'io all'aumento della benzina. E allora diciamo che siete fuori allora diciamo che siete fuori strada. Sì. Nessuno ha ancora portato a casa il premio. Cosa facciamo? Ho pensato al discorso legato ai matrimoni gay, a qualche notizia che avevo sentito questa settimana su... Sì, è successo. Un matrimonio in Spagna è stato celebrato e ha valore, cioè un certo tipo di valore anche in Italia, almeno per ora, però bisogna vedere cosa succederà. Pensando a un discorso romantico, penso che tutte e due sono abbastanza... E quindi dai questa notizia come risposta. Grazie Luca, ciao, buona domenica, ciao. Saverio da Livorno. Ciao Stefano. Ciao Saverio, siamo ancora a 500 euro e molto fuori strada, devo dire, con le risposte. Esatto. Sono stato cattivissimo. Questa settimana sono cattivissimo. Senti, io, se è possibile, ascoltare un altro indizio. Ma come no? Eccolo qua. Dietro quale segreto, dietro quale divieto, si perde una notte così. La gente non sa dietro quale dolore, se dolore c'è, quando son quasi le tre. Eccolo qua, questo è il terzo indizio che arriva da Ivano Fossati, direttamente da lui, ed è Notturno delle tre. Eccolo qua, Saverio. Allora, mi butto. Allora, la notizia di questa settimana per cui ci sono sospetti che Berlusconi abbia continuato a pagare alcune ragazze. Ci sono i bonifici. Esatto, per sempre riguardo alla questione di Ruby, per poter sostanzialmente farle tacere. Ma se avevano bisogno, perché non aiutarle? Grazie Saverio, ciao, buona domenica. Grazie a te, ciao. Marco della provincia di Monza, non diciamo nulla, è ancora. Marco. Pronto? Ecco, siamo a 500 euro. Ah, 300, scusami, 300 euro. Perché allora, il secondo e il terzo indizio mi hanno detto poco. Io avevo pensato alla notizia del biologo tedesco che aveva aperto una clinica per la fecondazione artificiale. Sì. E che in questi giorni si è scoperto che oltre a gestirla agiva anche in prima persona per aiutare i propri pazienti e che adesso ha circa 600 figli. Si è dato da fare, infatti. Però credo che non sia di questa settimana la notizia, sai, credo che sia della settimana scorsa. Forse sì. Sì, è della settimana scorsa perché era tra quelle papabili. Ma grazie Marco, mi dispiace, ti ho già detto che non è la risposta giusta. Grazie. Tania, dalla provincia di Savona, buongiorno. Sì, ciao, buongiorno. 600 figli in giro, ma come fa poi a sapere che sono? Vabbè, sì, perché avrà segnato tutte le donne a cui ha fornito. Vabbè, allora, Tania, scusa, sorridevo. Se adesso queste chiedono per caso gli alimenti, voglio vedere. Cosa vuoi fare? Io proverei. Proverei sì, perché dal primo indizio in realtà avevo allora pensato... Aspetta un attimo, sentiamo i tre indizi che abbiamo scoperto fino a questo momento. Perfetto. Più del vino, più del pari, più quel profumo che ti piace. Oggi non lavoro e festa. La ragazza lo sa come non farmi dormire. È anche scaduto il tempo. Allora, un po' di più, Baglioni è festa e notturno delle tre. Tre. Tania, ecco, questi sono indizi, tre indizi. Sì, appunto, io dopo il primo in realtà indizio avevo pensato a questa notizia secondo cui gli italiani spenderebbero ogni anno più per bollette varie che per le spese alimentari. L'italiano sono io, in particolare, sì, ma poi... Questa è la risposta? Sì, io penso a questa notizia. No. Tania, no. Ciao. Sì. Grazie. Ciao. Ciao. Grazie, ciao Tania, grazie. Ciao, ciao. Non ce l'abbiamo fatta, niente da fare, mi dispiace. Allora, succede questo, la notizia, bella se vogliamo, è che la PAM più a meno, significa PAM per questo un po' di più, tre perché sono tre le parole, più a meno è perché sono tre i soci che hanno fondato PAM, è festa, perché ha deciso di assumere gli studenti per lavorare la domenica e sono arrivate già più di 5.000 domande di assunzione. Siccome possono tenere aperto adesso anche la domenica per le nuove leggi, allora hanno deciso di aprire la possibilità con vere assunzioni. Ha avuto grande successo e anche grande eco su tutti i giornali questa notizia di giovedì scorso. Niente da fare, vedremo settimana prossima. Grazie a Giorgio De Luca redazione, Gian Gabriel Lombardo in assistenza e Carmelo Lauricella in regia. A tutti voi buona domenica da Stefano Gallarini, a domenica prossima.